al sicuro nell'immensità. Ecco perché urla il vento, ecco cos'è un lamento, ecco perché io mi sento come un fuoco che non si è mai spento. Sole in mezzo al blu.